E vedo solo luci blu. E penso a dove sarai tu. In questa notte di blindati, in questa terra di dannati, chissà dove sarà il tuo cuore. In questa piazza anni fa, passeggiavamo piano piano. Solo luci blu.